Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Una buona giornata da Luca Tremolada, sono qui in compagnia con Luca Dello Iaco, grandissimo frequentatore di reti sociali e conoscitore di ristoranti, no? È sbagliato. Esatto, e questi ristoranti poi io li conosco perché magari... Perché non sei un critico, non, diciamolo, no. Perché il tema di oggi è raccontare tre storie di innovatori della rete e partire da una storia che è particolarissima di un innovatore che abbiamo qui in studio e diciamo subito chi è, Marco Palazzo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che sostanzialmente si siede sui pareri degli altri. Spiega però... che cosa fa duespaghi.it, che è il social network di cui oggi andiamo a parlare? Sì, Due Spaghi è un posto per condividere delle recensioni. Cioè, se io cerco un ristorante, voglio scoprire nuovi ristoranti, nuovi locali, in genere lo chiedo agli amici, ma posso anche scegliere Due Spaghi per scoprire nuovi posti. E lì posso votare anche i posti che mi piacciono di più, posso conoscere nuove persone. Esploro così un mondo che magari mi sarebbe stato precluso. Ecco, quindi non c'è nessun critico che vale più degli altri, nessuno è più importante degli altri, siamo tutti uguali e tutti quanti possiamo dare libero sfogo alla nostra criticità, se vogliamo. Ecco, maestro, bando alle ciance, sentiamo subito chi è Marco Palazzo. Da 10 anni Marco Palazzo sviluppa progetti per internet. Una sera a tavola immagina con un amico, Stefano Massimino, un social network per le recensioni dei ristoranti, dove consigliarsi i posti e i piatti migliori. E in poco tempo vara su internet Due Spaghi, una community dove chiunque può parlare del suo locale preferito o seguire i consigli degli altri. Negli anni diventa una miniera per scoprire ristoranti tradizionali, etnici e di tendenza. Ecco, una miniera, ma non è solo per parlare bene, cioè si stroncano anche i locali. Allora, noi accettiamo qualsiasi tipo di recensione che rispetti alcuni limiti che ci siamo dati, che non offenda, che non sia... che non parli male di persone che comunque stanno facendo il proprio lavoro nel bene o nel male, quindi si può commentare negativamente se si è in grado di, certo, rispettare, se si ha contezza sul cibo. Ecco, tra l'altro una cosa che posso vedere di persona è che Marco Palazzo, quando ho sentito il fondatore di Due Spaghi, mi aspettavo un personaggio robusto. È una sciocchezza, ma è così. In realtà è piccolino, è mingherlino e non mi aspetto che una persona che ha inventato, che ha creato una rete per condividere, sembra un mangione, no? Per condividere i ristoranti, invece sei tutt'altro. Questa è un'altra delle bugie comuni di internet. Sì, su internet ci sono tanti luoghi comuni. Comunque, diciamo, il mangiare è una delle mie passioni, mia e di Stefano, socio con cui ho fondato Due Spaghi. Poi vabbè, si cerca di tenersi in forma. Perché? Cioè, da cosa nasce l'idea? Perché chiedere a che l'idea in sé è geniale, cioè chiedere a tutte le persone che realmente frequentano un ristorante di dare un giudizio sul cibo. Perché come molte persone eravamo fermi sempre negli stessi posti, continuavamo a frequentare gli stessi ristoranti e avevamo voglia di scoprire posti nuovi. Allora abbiamo approfittato di questa nostra passione, uscire a cena e mangiare fuori, per coniugare questa cosa con delle cose che stavano nascendo nel web, soprattutto in America, 3 o 4 anni fa. Quindi c'erano tante cose che ci piacevano, soprattutto un sito in cui poter scambiare i propri preferiti e vedere le persone che avevano i tuoi stessi preferiti quali altri siti andavano a visitare. Abbiamo pensato di coniugare questa modalità al mondo della cucina e far nascere un sito che ti proponesse nuovi posti in cui andare, in cui più o meno capivi che ti sarebbe potuto piacere perché piaceva a gente che aveva i tuoi stessi gusti. 824 0024, il numero per fare due chiacchiere con Palazzo per capire come si costruisce dal nulla un social networking di questo tipo e se conviene, e 349 238 6666, gli sms. Luca, questa non è un'idea originale, però questa No, perché appunto anche come mi diceva Massimo prima, Marco, si sono ispirati a Delicious, che è appunto un sito che permette di condividere insieme ad altri siti, e soprattutto io chiederei anche a Marco cosa ne pensano i ristoratori poi di questa iniziativa, che sono quelli poi direttamente coinvolti anche in questo mondo, diciamo. Ma i ristoratori, insomma, ci sono due tipi di ristoratori: quelli che accettano positivamente qualsiasi tipo di recensione, di commento, e quindi se sono positivi sono contenti, magari si compiacciono, si fanno i complimenti a chi li ha fatti, e se sono negativi si scusano e magari chiedono la prossima volta che passi di qua facci sapere, che magari cercheremo di migliorare il nostro servizio. Altri invece che non accettano nella maniera più assoluta i commenti negativi, in quanto dicono: chi sta commentando non è un critico gastronomico e quindi non può commentare negativamente un ristorante perché non ne capisce. Non ne sa, che se non ne sai non puoi entrare nel merito. Però c'è una prova del 9, nel senso che chiaramente è aperto questo sito, per cui chiunque può entrare e esprimere il suo parere. Sì, chiunque può farlo. Noi abbiamo diverse migliaia oramai di utenti, più di 15.000 utenti che inseriscono recensioni, e più di 600-700.000 utenti che ogni mese le vanno a leggere. Quindi... Perché il sospetto, mi spiegava prima, che è la pubblicità che tiene in piedi il sito, per cui voi fondamentalmente guadagnate con le inserzioni pubblicitarie sul sito, il che da un certo punto di vista è una garanzia. Però dall'altro può anche nascere il sospetto: sì, ma chi è che investe in due spaghi? Magari un ristorante, un locale investe e spinge a cambiare un po' i pareri, a manipolare un po'. Sì, beh, attualmente gli investitori pubblicitari, gli inserzionisti pubblicitari che investono su due spaghi sono aziende del mondo dell'enogastronomia, quindi come produttori di vini, produttori di prodotti tipici, organizzatori di eventi enogastronomici, quindi non c'è un gran conflitto di interesse ora come ora. È ovvio che nel futuro noi cercheremo di proporre ai ristoratori dei servizi che possano essere utili agli utenti poi di due spaghi, e quindi starà a noi cercare di combinare al meglio il fatto che ci saranno dei nostri clienti che andranno trattati come tali, e poi ci sarà una community che andrà rispettata. Io tra l'altro sono in questo momento su www.duespaghi.it, due in cifra, e sto navigando un po' tra i pareri, ma c'è qualcuno che se li fa tutti a tappeto i locali, cioè l'utente esperto che passa la vita a mangiare, che è una cosa bellissima peraltro. Abbiamo tanti utenti che sono molto appassionati e passano diverse ore al giorno su Due Spaghi. Noi abbiamo anche creato una classifica che si chiama Top Spaghi, dove si possono vedere chi sono gli utenti più attivi. Il primo della classifica, che tra l'altro abbiamo poi conosciuto, è uno chef che ogni mattina va in cerca di posti nuovi, magari gira per mercati per cercare prodotti da cucinare la sera, oppure comunque fa i suoi giretti e inizia a fotografare tutti i posti nuovi che incontra, le inserisce su Due Spaghi, scrive le recensioni. Ecco, c'è una regione dove ci sono regioni, luoghi particolari? Sì, beh, Roma, diciamo, è il posto. È il posto con più commenti, soprattutto perché comunque Roma è una città grande con, certo, 4-5 mila ristoranti, quindi poi si sta meglio rispetto che a Milano sul clima, per cui c'è il tavolino fuori. Sì, è proprio una questione culturale, proprio mangiare bene a Roma. E comunque la community forte c'è soprattutto in posti come Firenze e Bologna, che comunque sono anche posti in cui si mangia molto bene. C'è anche il giapponese? Ci sono, e ho tutti i ristoranti etnici, quindi giapponesi, ma abbiamo anche delle etnie che difficilmente si poteva pensare, il cambogiano, l'equadoregno. Ma il futuro di Due Spaghi quale può essere? Una volta che tu hai creato una comunità che si incontra e che si confronta su quello, sul tavolo, sulla tavolata migliore, sul piatto di spaghetti più buono. Il futuro di Due Spaghi, da come l'abbiamo pensato sin dall'inizio, è cercare di far incontrare le persone, quindi fare in modo che succeda quello che succede ogni 2 o 3 mesi a Firenze, e cioè che le persone si incontrino e vadano a cena assieme, organizzando il tutto su 2 spaghi, creando degli spago raduni, come sono stati denominati. Ecco, per la serie Caramba che sorpresa abbiamo Andrea da Rimini, che è iscritto a 2 spaghi. Buongiorno. Ciao. Abbiamo detto la verità? Sì, io sono iscritto e utilizzo 2 spaghi sia quando sono in una città che non conosco per orientarmi tra i ristoranti e quindi capire dove andare. E poi un'altra cosa simpatica, io ho messo la mia foto nel mio profilo su 2 spaghi e mi è capitato in un paio di casi che i ristoranti dove vado magari anche spesso, così che ho recensito, i titolari mi abbiano ringraziato per il commento e magari mi abbiano anche chiesto perché ho scritto una cosa negativa, non so, sui dolci che a me non piacevano in un caso particolare. Perché lei ha scritto bene. Ho scritto cose positive, ma ho anche detto, per esempio, di un posto vado spesso che i dolci non mi piacciono. E allora il titolare mi ha chiesto come mai, perché certo. Mi piacevano. È una cosa un po', insomma, carina, perché poi da internet si è passato al reale, cioè da una cosa che ho scritto un po' su un sito che hanno chiesto di spiegarlo di persona. Grazie Andrea. Ora restiamo sul tema dei innovatori italiani, li chiamiamo così? Sì, perché questi innovatori, appunto, non è detto che poi per innovare nel mondo di internet e dei social network si debba nascere per forza in America, negli Stati Uniti. Anzi. Yodel, io lo farei andare avanti ore e ore. Tra l'altro ho scoperto su Wikipedia che innanzitutto veniva utilizzato in Svizzera per richiamare il bestiame e per richieste di soccorso, e poi tra l'altro il più lungo yodel è durato tipo 14 ore, una cosa terrificante. Perché abbiamo mandato in onda uno yodel, Luca? Perché c'è un alto tesino che ha avuto un'idea. L'idea è stata quella di riunire tutti gli altoatesini in un solo social network per incontrarsi nel mondo, perché appunto la comunità poi è molto... Insomma, altoatesini di tutto il mondo, unitevi. Buongiorno Thomas Moore, linea? Sì, sono in linea, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora adesso raccontiamo un po' a tutti chi è lei e poi vediamo un po' di capire come funziona questo social network. Thomas Moore, altoatesino, ha iniziato la carriera con la progettazione di software per le automobili. Il suo primo laboratorio per la pratica della tecnologia è stato il centro di ricerca Audi. Nel 2003 l'intuizione, riunire gli altoatesini nel mondo attraverso un social network, lo chiama Sudstern, significa stella del sud, e arriva online a pochi mesi da Facebook. In breve tempo diventa un punto di incontro per organizzare feste e trovare offerte di lavoro, riunendo anche personalità famose della comunità altoatesina, come il designer Matteo Thun. Eccoci, buongiorno. Ma in che senso riunire gli altoatesini? Cioè, che cosa succede nel suo social network? Sì, il nostro social network è un social network di nicchia, lo chiamo, e ha un forte denominatore comune, ed è quello che si riuniscono tutte le persone che sono nate e cresciute in Alto Adige e che poi hanno studiato all'estero e da più di 2 anni lavorano all'estero. E che organizzano anche quindi feste e che attraverso il social network eventi e possono anche poi trovare lavoro, giusto? Sì, è praticamente l'idea base è quella di fare incontrare questi altoatesini nel mondo. Noi abbiamo proprio... L'aiuto reciproco è una delle cose più importanti del nostro network. Allora, noi facilitiamo l'organizzazione di eventi in tutto il mondo, appunto a Tokyo, a New York e così via, in modo che lì questa gente si conosca, si aiuta, resta in contatto E poi c'è questo il social network dove poi possono anche incontrarsi. Ecco, ma in quanti siete? Cioè, da quante persone è composta? Tra l'altro il sito che noi pubblicheremo sul nostro account di Twitter è www.swedstern.org, ho detto giusto? Sì, giusto. Ok, ecco, in quanti siete? Siamo in 1100. Accidenti. Sì. E da tutto il mondo? Cioè, dov'è che siete disseminati? Dov'è che è? Diciamo che circa il 75% è disperso per l'Europa e il resto in tutte le parti del mondo, anche in Nepal, Cina, Stati Uniti, Canada, Sud America, veramente in tutte le parti. Ecco, Luca, Luca Dell'Oriaco ha una domanda. Sì, pensate di organizzare un raduno di tutti gli altoatesini attraverso Sudstern, richiamandoli da ogni nazione? Sì, sì, noi infatti ogni anno facciamo un evento che il 28 di dicembre, dove diciamo tanti sono a casa a trovare i loro amici, i loro parenti. E adesso siamo già alla quinta edizione di questo evento annuale, lo chiamiamo, e nell'anno scorso sono arrivati 350 persone, che è un terzo di tutti i soci, e questo diciamo è proprio il raduno di Switchdown, dove tutti si incontrano, parlano. Ecco, dottor Muro, cioè, adesso che avete creato una comunità e avete anche la possibilità, insomma, di vedervi di persona, qual è il prossimo passo? Perché quando la rete è un luogo interessantissimo da questo punto di vista, perché riunisce delle comunità che a loro volta vengono connesse ad altre comunità. Ci sono in questo caso gli altoatesini, però esistono tantissime, tra virgolette, minoranze che si incontrano e si trovano in rete e poi si connettono ad altri gruppi, e questa connessione crea nuovi, possono essere i business, come possono anche essere attività, iniziative. Qual è quindi la seconda fase del suo progetto? Sì, noi diciamo che adesso siamo alla terza iterazione del sito, che andrà online alla fine dell'anno, no? E ci vediamo più anche come vogliamo fare un ponte tra le conoscenze che si trovano all'estero, visto che abbiamo soci a Harvard e in tante altre università note in tutto il mondo, e vogliamo creare dei tavoli rotondi in Alto Adige, dove poi raggrupperemo esperti di un certo settore della nostra rete di Switchdown con esperti in Alto Adige, esperti locali delle varie istituzioni. Perfetto. Nova Lab 24. Bentornati al microfono Luca Tremolada, siamo in compagnia di Marco Palazzo, il fondatore di Due Spaghi, e in collegamento con noi Thomas Moore, il creatore di Sudstern, che tra l'altro significa stella del sud, ed è un social networking che riunisce sostanzialmente tutti la comunità degli altoatesini. Ecco, ho subito una domanda da un ascoltatore per Palazzo, che si chiede che differenza c'è tra il sito ilmangione.it e appunto duespaghi.it. Ma ci sono tante differenze. Innanzitutto, il Mangione è un sito che esiste da molti più anni di noi, credo una decina. Due Spaghi, la prima cosa che balza subito all'occhio come differenza è proprio la grafica, è molto più improntata sull'aspetto un po' più fresco, un po' più nuovo, diciamo. Però mi sembra che la missione sia sostanzialmente la stessa, anche se Due Spaghi ha molto più un aspetto, cioè l'aspetto sociale di interscambio di opinioni tra la gente è molto più marcato in Due Spaghi. La gente si può chiedere dritte, si può mandare dei messaggi, può interagire molto di più che quanto succede sul Mangione. Ecco, Tra l'altro, Luca, adesso noi ci stiamo tutti riunendo sul tema del cibo, che è molto italiano e ci piace moltissimo, però di siti che ragionano con le recensioni, sulle recensioni, cioè sui pareri, sono moltissimi. È una realtà estremamente interessante quella dell'utente che interviene in rete, di solito con gli strumenti del web 2.0, per cui con i blog, con i siti di social network, per esprimere un parere, per formare quindi un movimento in qualche modo di d'opinione. Certamente sì, e anzi è una realtà in crescita, è una realtà che poi vediamo che si esprime in diversi spazi, quindi in blog, in forum, in social network, social network appunto anche come Facebook, di cui appunto noi sappiamo che in Italia c'è stata una crescita rapidissima, è arrivato a 10 milioni di utenti e quindi diciamo ha conquistato il paese. Ecco, hai citato appena adesso Facebook, perché noi ora raccontiamo la storia di Daniele Sciuto. Daniele Sciuto è un medico e ha utilizzato Facebook in modo piuttosto diverso da quello a cui siamo abituati. Sentiamo nella scheda di Luca Dello Iacovo chi è Daniele Sciuto. Daniele Sciuto è un medico e lavora nella provincia di Savona. Nel 2006 fonda Find a Cure, un'associazione non profit per organizzare campi medici nell'India meridionale. La svolta arriva con Facebook. Attraverso il social network, Sciuto può coinvolgere nelle iniziative una massa crescente di fan e finanziare i suoi progetti umanitari. Buongiorno, dottor Sciuto, in linea? Sì, ci sono, buongiorno a voi. Ecco, quando è nata l'idea di utilizzare un social network, diciamo, leggero come Facebook, tuttora viene trattato dai media, ma non solo, come un luogo dove ritrovare la fidanzatina piuttosto che pubblicare il gioco strano, ecco, il videogioco strano. Lei l'ha utilizzato per un motivo importante. Sì, è nato un anno, poco più di un anno fa esattamente, perché mi ricordo che 2-3 settimane fa abbiamo spinto un pochino i fans, dicendo eravamo a 3.990 e mancavano poche ore al compimento di un anno, allora abbiamo detto facciamo i 4.000 con l'anno, e così proprio allo scadere della mezzanotte di un anno abbiamo toccato 4.000 fans, quindi è caduto da un anno, da poche settimane via. Ecco, ma i fan in che cosa si traducono? Perché ricordiamo a chi non lo sa, il fan è semplicemente un utente di Facebook che decide di aderire a una certa iniziativa. Nel vostro caso, qual è l'apporto del fan? È un apporto semplicemente ideologico o anche più materiale? No, è un rapporto, diciamo, per Facebook soprattutto ideologico e di simpatia, che per qualche motivo decidono che piace l'idea di Find the Cure, quindi vogliono comunque essere aggiornati su quello che è il messaggio di Find the Cure, su quello che sono le iniziative e su quello anche che sono le missioni quando siamo in India. Ma organizzate anche poi delle feste, degli eventi che poi servono anche per raccogliere, ecco, delle donazioni utili poi per finanziare le missioni umanitarie? Sì, noi siamo, durante l'anno organizziamo tante manifestazioni, tante feste, o partecipiamo come ospiti ad alcuni eventi, quindi tramite Facebook segnaliamo che noi siamo lì e la gente può venire, nel momento che arriva aiuta e in quel momento può dare il supporto, quindi è un aiuto, diciamo, in seconda istanza. E sono anche i giovani in particolare che partecipano, mi diceva che soprattutto quelli poi delle scuole superiori stanno entrando, ecco, in questo mondo? Sì, trovo che sia stato un buon modo di comunicazione soprattutto per i più giovani, che nel campo della cooperazione sono magari un pochino più distanti. Quando magari ci capita di andare nelle scuole, nei licei a presentare, a far vedere dei video, poi ritroviamo questi alunni già il giorno dopo e si sono iscritti, non che magari erano già iscritti, però sono diventati fans di Find the Cure e gli piace ricevere gli aggiornamenti o vedere le foto o vedere che cosa stiamo facendo. E con, diciamo, poi i finanziamenti, che cosa andate a costruire poi in India e che cosa avete fatto, se me lo può dire in breve? In breve adesso Find the Cure sta per andare per il terzo anno. Abbiamo iniziato con un ambulatorio in Kerala, al confine tra il Kerala e il Tamil Nadu, poi dall'ambulatorio abbiamo fatto una casa per i malati terminali in Tamil Nadu, a Rangoon Airy, poi un ospedale per il cancro a Eluru, una scuola Nantico Tukur, due programmi di cibo, uno a Iluro, l'altro a Ponogodo, e un orfanotrofio a Ponogodo. Questo è tutto nello stato dell'Andhra Pradesh, nell'India meridionale. Ecco, e tutto questo è stato lanciato attraverso è stato pubblicizzato ed è stato promosso attraverso Facebook. Luca Dello Iacovo ha intervistato Luca Chittaro, che è il professore ordinario di interazione uomo-macchina dell'Università di Udine, proprio per cercare di capire come stanno cambiando, come sta cambiando l'utilizzo di Facebook e anche che cosa gli sta chiesto. Sì, in particolare, ecco, come cambia il comportamento delle persone dal mondo reale a quello online. Quello che sta emergendo, volendo dare un quadro generale, è che ci sono i cosiddetti newcomers, quindi le persone che entrano per la prima volta in un social network, che nel primo periodo di utilizzo dello strumento tendono a riprodurre anche in modi amplificati rispetto alla realtà quotidiana dei comportamenti che siamo abituati a vedere da sempre nel mondo fisico. Un esempio, la cosiddetta regola di reciprocità. È ben noto che nel mondo fisico siamo più o meno automaticamente condizionati a contraccambiare quando qualcuno ci fa un regalo o condivide qualcosa con noi. Cosa succede nelle prime settimane o mesi d'uso del social network? Questo fenomeno si manifesta in modo amplificato anche perché si ha la percezione che sia tutto più facile al computer, quindi ci arrivano richieste di amicizia anche da parte di sconosciuti e non sappiamo dire di no. Persone che condividono con noi fotografie o ci taggano in fotografie, ci sentiamo in dovere di dare una risposta, di condividere anche noi qualcosa. Le persone più estroverse sono anche le persone più estroverse poi nei social network? Ecco, su questo esiste proprio già una ricerca già svolta ed è una di quelle che ha dato un risultato sorprendente, perché il super estroverso nel mondo fisico tende ad avere meno amici nel social network rispetto ai suoi colleghi più timidi. Facebook può essere usato per previsioni? Sì, sicuramente. In questa ricerca svolta da due ricercatori di Facebook insieme alla Carnegie Mellon è emerso proprio nello studiare 140.000 utenti che si può riuscire a prevedere quanto una persona condividerà in base alla rete di amici, di persone che ha dichiarato propri amici. Perché interessa a Facebook questo discorso del prevedere quanto uno condividerà contenuti? Perché la condivisione di contenuti è la linfa vitale del social network. Se una persona non condivide contenuti, viene chiamata free lurker, quindi uno che sta lì solo a guardare, danneggia il social network. Se tutti ci mettiamo a fare i free lurker e guardiamo e basta e non condividiamo contenuti, il social network muore. Noi siamo in collegamento con David Casalini, CEO di Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Sembra una battuta. Abbiamo appena, se voi avete lanciato l'anno scorso People Sound, un social network per chi usa il cellulare, ma la domanda è, attraverso i social network voi riuscite a capire e a prevedere qualche cosa sugli utenti? Cioè, sono uno strumento di analisi del business, di marketing forte, importante? Solo una precisazione, sono il responsabile tecnologia di Buongiorno, non il CEO di Buongiorno. Sì. E assolutamente sì, anzi, all'interno della nostra strategia marketing è fondamentale, diciamo, in realtà tutto il mondo social ormai è fondamentale, tanto più per un'azienda come la nostra, che vive nel mondo di internet meglio che della telefonia. Ecco, ma voi cosa riuscite a estrarre dal vostro social network? Riuscite a estrarre indicazioni per poi orientare il business? Oppure appoggiate il social network a internet e vedete un po' che cosa succede? Lo lasciate libero di andare? No, lasciamo l'utente libero di andare e all'interno di questo social network che abbiamo lanciato c'è tutta una sezione fatta di canali, quindi di contenuti, in parte premium, in parte totalmente gratuiti, e in base alle sue scelte, a che cosa naviga, riusciamo a presentargli delle campagne ad hoc. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Thank you. Dalla Corea, la pubblicità solare. I messaggi promozionali saranno stampati su un inchiostro speciale illuminato dall'energia del sole. Può funzionare all'esterno e in luoghi chiusi, per esempio nei centri commerciali e lungo le strade, dove la diffusione della rete elettrica è limitata. Chi ha detto che l'Italia è o paese do sole? Guardare la Terra con gli occhi degli astronauti. Il sito si chiama Bella Gaia. Digitando www.bellagaia.com, la Terra appare come una piccola sfera blu. L'iniziativa è stata lanciata a pochi mesi dall'anniversario della discesa dell'uomo sulla Luna, avvenuta nel 1969. Sarà Boulder, nel Colorado, la prima città al mondo a sperimentare una rete intelligente per la distribuzione di energia elettrica. A finanziare il progetto è stata Xcel Energy. L'idea circola da alcuni anni, ma finora nessuno è ancora riuscito a realizzare un'architettura tecnologica capace di facilitare i risparmi e ottimizzare i consumi degli utenti. Fotografare la Terra dallo spazio con un cellulare. L'impresa è riuscita a due studenti dell'MIT che hanno utilizzato un telefonino dotato di fotocamera e navigatore GPS. Una sonda gonfiata con elio ha portato il cellulare all'altezza di 30 km, poi lo scatto. Il costo dell'operazione? Circa 100 euro. Una versione ridotta di Facebook per conquistare i paesi in via di sviluppo. I tecnici del social network hanno progettato un modello più leggero che può essere scaricato facilmente dal cellulare. Il telefonino, infatti, è la tecnologia più diffusa in Africa e in Asia per accedere ad internet. La mossa è stata decisa per abbattere le barriere all'espansione globale di Facebook, che ormai riunisce 340 milioni di utenti unici nel mondo. La sorpresa è arrivata però dagli Stati Uniti. La versione Lite ha entusiasmato gli utenti, che in questo modo possono accedere direttamente alle funzioni essenziali. Quindi mi sembra di capire che la novità è questo Facebook Lite. L'ho detto male, Facebook Lite, ecco. Sì, un po' come il Philadelphia, è un Facebook più leggero in effetti, che si può caricare sul telefonino. Ecco, la chiave di lettura è quella... telefonino, quindi paesi in via di sviluppo, mi sembra lì che sia la lettura più immediata che è venuta. Tu che ne pensi, Palazzo? Beh, il mobile oramai è proprio la direzione in cui tutti i progetti di social networking devono andare. Anche noi abbiamo il nostro sito accessibile da cellulare, perché è proprio quando sei in giro che ti servono le informazioni del tuo social network. Ecco, ma ci credi alla possibilità di gestire un social network come Facebook, quindi estremamente autoreferenziale da un certo punto di vista? Sì, credo che anche da parte loro sia una buona mossa, perché comunque loro hanno necessità di crescere in fretta e quindi... Vabbè, loro, questa è una questione di business. E noi, che autoreferenziale lo siamo di default, diamo i nostri account. Perché ci potete trovare anche su Twitter, che è un social network alla voce Novalab. Ci trovate anche su Facebook, sempre alla pagina dedicata a Novalab. E che cosa faranno lì? Che cosa succede lì? Lì segnaliamo sostanzialmente i link della trasmissione, gli articoli che leggiamo, perché no? E poi potete anche chiederci qualcosa, se c'è qualche intuizione, qualche personaggio o qualche idea che volete proporci, lo potete fare anche attraverso Twitter e noi saremo lì per dialogare con voi e per stare insieme. Sì, l'idea è quella anche di riunire un po' tutti gli ospiti, per cui anche lei, Palazzo, della trasmissione, insomma, se partecipate anche voi e ci aggiornate nelle varie iniziative. Poi il cuore di questa trasmissione è proprio quello di aprire il microfono agli innovatori, far capire come ragionano, come funzionano nel loro day by day, durante la loro giornata, per dimostrare che esiste dei personaggi che possono anche cambiare o dare una spinta o innovare su vari fronti. Ma siamo assolutamente in ritardo. Io ringrazio Filippo Aureggi in regia e Flavio Suardi in redazione. L'appuntamento è per domani, sempre alle 16, con Novalab 24.